il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Al giorno d'oggi ogni settimana ha il suo giallo, le trasmissioni televisive invitano criminologi che ci raccontano di questo, di quel delitto, poi arriva Vespa con il plastico, insomma ci sono una serie di gialli anche truculenti che in qualche modo arrivano all'attenzione pubblica e poi ce ne dimentichiamo. Io invece vi racconto una storia che è avvenuta tra il 1939 e il 1940 e l'Italia ne ha parlato per almeno 50 anni ed è una storia assolutamente più cruda di tutte quelle di cui si parla oggi. Vi racconto la storia della saponificatrice di Correggio, Leonarda Cianciulli, e i suoi tre terribili omicidi con il suo pentolone sempre acceso. Una storia che ha riempito le pagine dei giornali dell'epoca, è stata oggetto di studi di criminologi, psichiatrici, perché lei tra il 39 e il 40 uccise e fece a pezzi, per poi sciogliere nella soda caustica, i corpi di tre donne che avevano avuto la sfortuna di frequentare la sua casa, e con quei corpi lei fece saponette e croccanti pasticcini. La Cianciulli, dicono le cronache del tempo, è una donna estroversa che nasconde un abisso con un'infanzia e una giovinezza difficili. Era nata a Montella, un paese dell'Irpinia in provincia di Avellino, nel 1892. Ha affrontato gli anni duri della miseria e del poco amore, come lei scriverà nel suo lungo memoriale. Ero una bambina debole e malaticcia, soffrivo di epilessia, ma i miei mi trattavano come un peso. Non avevano per me le attenzioni che portavano agli altri figli. La mamma mi odiava perché non aveva desiderato la mia nascita. Ero una bambina infelice, desideravo morire. Cercai due volte di impiccarmi. Una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva rivedermi viva. Con una madre che manifesta il dispiacere di ritrovarsi la figlia ancora viva, è meglio sposarsi prima possibile. Così nel 1914 lei si sposa con Raffaele Pansardi, un impiegato dell'ufficio del registro, e va a vivere nell'alta Irpinia, Ariano Irpino, e la madre tenta di osteggiare quel matrimonio perché vorrebbe darla in sposa a un cugino. Da quel matrimonio arrivano quattro figli, ma anche tre aborti e 10 figli deceduti in fasce, in pratica 17 gravidanze e solo 4 figli che rimangono vivi. Questo diventa in lei la sua ossessione. La morte le strappa prima il padre e poi 13 figli su 17. Ma nel 1930 a Ariano Irpino c'è un terremoto e non sarà, ahimè, l'unico, come sappiamo. La casa dei Pansardi, cioè la casa della nostra protagonista, viene distrutta e così si trasferiscono a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, nella Bassa Emiliana. Siamo nel 1930, 9 anni più tardi si verificherà il primo terribile omicidio. Quelli sono gli anni delle migrazioni, delle speranze, e grazie ai soldi del risarcimento statale concesso ai terremotati e al commercio degli abiti usati portato avanti proprio da Leonarda, le condizioni della famiglia si risollevano. I tempi sono duri, ma lei tira avanti con il suo banco di vestiti usati e con dei pasticcini fatti in casa, venduti al mercato paesano. Per adesso pasticcini fatti con ingredienti naturali. Leonarda Cianciulli è una donna tuttofare, per lei i figli sono tutto, e si rifà una vita conquistandosi da sola una certa fama, una piccola posizione sociale grazie al commercio casalingo di abiti usati e all'attività di maga, legge il futuro, toglie il malocchio, invita persone a casa sua, legge le carte, prepara pozioni, amuleti, intrattiene le compaesane per interi pomeriggi, insomma diventa un personaggio a Correggio. Ma poi nel 39 scatta qualcosa nella sua mente e sicuramente già labile. Dietro a quella facciata di donna a modo matura uno spietato piano criminale. La figlia più piccola Norma va all'asilo, il figlio Biagio è ancora a scuola, poi c'è Bernardo e poi c'è Giuseppe, detto Peppino o Peppuccio, è il figlio maggiore, il prediletto, e questi due potrebbero essere chiamati a prestare servizio militare. Lei ha un rapporto quasi maniacale con il figlio maggiore, e fa avanti e indietro da Milano dove studia lettere all'università. L'entrata in guerra che sembra sempre più vicina la terrorizza. Che bel bagno. Oh, braccio, dammo un braccio. Ma che felicità per me quando torni a casa. Certo, sapisse quanto bene ti voglio. Tu sia vita mia. Ma ti mangia rivas. Che cosa vuole lei? Buongiorno, signora. È per sua figlia. No, no, no. È uno sbaglio. E un altro appartamento. Deve presentarsi al distretto entro 24 ore. No, è un errore. Mio figlio deve diventare chirurgo, ha capito? Se ne vada, via! Questo è il film ispirato inequivocabilmente al caso di Leonarda Cianciulli, e il titolo è Il Gran Bollito, con un strano inedito Renato Pozzetto e con le musiche di Iannacci. Bene, e la paura di perdere i figli e la tormenta, sogna la defunta madre Emilia che la minaccia, maledice lei e tutti i suoi figli, e con le sembianze di una Madonna nera le appare in sogno chiedendo le vite umane innocenti in cambio di quelle dei suoi figli. È il momento della follia. E in seguito lei racconterà che già anni prima una zingara l'aveva predetto la morte di tutta la sua prole in guerra e la fine della sua vita in manicomio. Il falco e il gabbiano. Leonarda Cianciulli, non ancora la saponificatrice di Correggio, ma già una donna superstiziosa e con un incubo ricorrente, quello di perdere gli ultimi 4 figli vivi. Ne ha avuti 17 e 13 li ha persi prima del primo anno di età. E così nella sua mente malata si insinua una soluzione. Bisogna fare qualcosa per salvare quei figli, bisogna fare dei sacrifici umani, la soluzione dell'omicidio per placare il demone della madre defunta. E così in quel periodo, nel suo lungo memoriale, scriverà così: non posso sopportare la perdita di un altro figlio. Quasi ogni notte sogno le piccole bare bianche di quegli altri, inghiottiti uno dopo l'altro dalla terra nera. Per questo ho studiato magia, ho letto libri che parlano di chiromanzia, astronomia, scongiuri, fatture e spiritismo. Volevo apprendere tutto sui sortilegi per riuscire a neutralizzarli. La verità è che le pozioni e i sortilegi non le bastano. Decide di attirare a sé, di fare sparire donne sole e anziane. Le lusingherà con la promessa di una nuova vita lontana e si farà firmare anche una procura per venderne i beni. E per lo scrittore Fabio Sanvitale, per esempio, lui ha fatto delle ricerche sulla storia della Cianciulli e ha scritto un libro. Il movente, più che la paura, è legato ai soldi. Nel 39 non eravamo proprio così sicuri di entrare in guerra, quindi in realtà il vero movente di Leonarda Cianciulli era il desiderio di essere una signora. Lei voleva sostanzialmente appropriarsi dei beni di queste donne per poter avere una maggiore disponibilità di denaro. Questo era in realtà il movente. e arriva la prima vittima, una zitella ultra settantenne che aveva perso la sua figlia illegittima prematuramente e anche lei commercia abiti usati, è attempata, però spera ancora di trovare l'anima gemella. La donna si chiama Ermelinda Faustina Setti, è semianalfabeta e vuole molto bene a Leonarda. Siamo nel dicembre del 39, manca una settimana a Natale e Faustina confida agli amici più cari che sta per sposarsi, sta per partire per raggiungere il futuro marito. Così vende la casa, lascia le sue cose a Leonarda, ma il giorno in cui va a salutarla non esce di casa viva, perché la Cianciulli intanto ha pianificato tutto, perché è lei che ha trovato il marito, o meglio le ha detto di aver trovato un marito, un ricco vedovo, uno di Pola, non doveva dirlo a nessuno per non scatenare voci e invidie, l'aveva aiutata a scrivere lettere d'addio a amici e parenti e poi a colpi di scure la uccide senza pietà, la trascina in uno stanzino e compie l'orrore, così almeno scrive. Gettai i pezzi nella pentola, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa, con la quale riempii alcuni secchi e che vuotai in un vicino pozzo nero. Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre a un poco di margarina, impastando il tutto. Feci una grande quantità di pasticcini croccanti e li servii alle signore che venivano in visita, ma ne mangiammo anche Giuseppe e io. Quindi tutti ingredienti naturali, in fondo anche il sangue e i resti della povera vedova Faustina sono ingredienti naturali. E sì, perché i dolci al cioccolato di Leonarda sono molto apprezzati, così come i suoi saponi artigianali, e nessuno può sospettare la verità. Ecco qua l'Uosemur. Oh. Assaggiateli. Sono buonissimi, li ho fatti con le mani mie. Te, Marie. Assaggia e dimmi come sono. Beh, è delizioso. Ci hai messo l'anice, vero? Hai proprio indovinato. E questo è per Lisa. Eh sì, dei dolci buonissimi, roba da far resuscitare i morti, quasi. E invece sta arrivando la seconda vittima, un'insegnante, Francesca Clementina Soavi. Anche lei sogna di andare via da Correggio, anche lei è senza parenti come Faustina. Quindi le vittime vengono scelte bene, persone senza troppi affetti e con delle aspettative anche assurde nei confronti della vita. E Leonarda dice a questa Francesca Clementina di averle trovato un impiego di rilievo in un collegio femminile a Piacenza. Questa Francesca ha 55 anni, lo confida all'amica. La mattina del 5 settembre del 40 raggiunge Leonarda per ringraziarla un'ultima volta e per salutarla. Si fa convincere a scrivere un paio di cartoline di saluti, senza sapere che da quella casa non uscirà più viva, morirà pochi istanti dopo sotto i colpi della scure. Dopo pochi giorni dalla presunta partenza, Leonarda si intasca i soldi che Francesca si era portata con sé e vende i vestiti e i mobili dell'istitutrice, dicendo a tutti che è stata incaricata dalla stessa insegnante. E poi il figlio Giuseppe, su incarico della madre, Peppuccio, quello prediletto, parte per Piacenza e da lì spedisce le cartoline. In paese iniziano a girare voci sulla strana scomparsa delle due donne e qualcuno le ha viste andare proprio verso via Cavour, però nessuno segnala la cosa alla polizia e nessuno può neanche immaginare che la verità della sparizione di quelle donne stia proprio nei dolci e nelle saponette vendute da Leonarda Cianciulli. E lo stesso copione verrà recitato anche per la terza vittima sacrificale. Siamo a novembre, questa volta è un'ex cantante lirica apprezzata in passato, 53enne, costretta a vivere in miseria, si chiama Virginia Cacioppo ed è vedova. E la Cianciulli la inganna, le racconta di aver trovato un incarico a Firenze come segretaria di un dirigente teatrale che magari l'avrebbe potuta reintrodurre nell'ambiente. Quindi vedete, fa ancora leva sulle aspettative, sulle illusioni di donne ormai sconfitte dalla vita, e come per gli altri casi la invita a non dirlo a nessuno perché l'uomo è un suo ex amante. Insomma, Virginia si tappa la bocca e non sa che sta vivendo le sue ultime ore di vita. Il Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando una maledetta storia di violenza efferata, una storia che ha mobilitato l'opinione pubblica italiana all'inizio degli anni 40 e nel dopoguerra. È una serial killer, una donna certo definita malefica, ma una donna che è piombata nel baratro della follia avendo perso 14 dei suoi 17 figli nel primo anno di vita. Stiamo parlando di Leonarda Cianciulli, conosciuta come la saponificatrice di Correggio. È una che ha fatto sparire senza lasciare traccia le tre sue vittime, tre sue amiche, tre donne sole che sono state agganciate facendo leva sulle loro debolezze, e le ha uccise per un folle patto di sangue che aveva contratto con se stessa, cioè il desiderio di sacrificare anime innocenti per salvare il destino dei suoi figli. È la sua terza vittima, perché alla terza vittima siamo arrivati, è un'ex cantante lirica che si chiama Virginia Cacioppo. Anche lei finì nel pentolone come le altre due. La sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta, aggiunsi un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori delle saponette cremose, accettabili. Le diedi in omaggio a vicine e conoscenti. Anche i dolci furono migliori. Quella donna era veramente dolce. E quindi un altro dettaglio terribile, cioè il fatto che, giunta al terzo omicidio, la nostra protagonista Leonarda Cianciulli comincia anche a disquisire sulla differenza di sapore tra un essere umano e un altro, perché di questo stiamo parlando. Parliamo di tre donne sulla cui ingenuità e sulle aspettative che avevano queste donne della vita ha fatto leva la Cianciulli, facendole sperare in un futuro migliore, in anni in cui il futuro, soprattutto per tre donne anziane, si prospettava abbastanza difficile. Insomma, entra a casa sua Virginia Cacioppo. Però questa volta le cose non vanno come dovrebbero andare, perché la cognata non si spiega la sparizione di Virginia e denuncia la cosa ai carabinieri di Correggio, comincia a chiedere, a investigare, inizia a fare ricerche da sola, scopre che in pochi mesi altre due donne erano sparite in modo misterioso, donne sole, senza parenti stretti e senza che nessuno abbia più avuto loro notizie dopo questa partenza. E così la Cianciulli comincia a diventare nervosa, perché il suo castello sta cominciando a incrinarsi. Spavalda e insolente fa vedere le cartoline delle donne sparite, minaccia querele, così come fa suo figlio Peppino, che la difende sempre. Ma Albertina Fanti, che è la cognata di Virginia, la terza vittima, insiste, si rivolge agli investigatori di Reggio Emilia e arriva a un momento di svolta. Siamo nel gennaio del 41, la questura di Reggio Emilia apre il caso, comincia a indagare, e quello che fa cambiare tutto è un semplice buono del tesoro in una banca di Reggio Emilia. Don Adelmo Frattini chiede di cambiare questo buono del tesoro appartenente alla scomparsa vedova Cacioppo. E qui si va a ritroso, il parroco spiega di averlo ricevuto da un altro uomo che si chiama Abelardo Spinabelli, che dichiara di averlo ricevuto dall'amica Cianciulli per il saldo di un debito. Leonarda Cianciulli a quel punto viene arrestata e confessa senza fare resistenza. Ebbene, me le ho mangiate le mie amiche, se vuole essere mangiato anche lei sono pronta a divorarlo. Le scomparse me le avevo mangiate una in arrosto, una a stufato, una bollita. Eh sì, me le ho mangiate. E la polizia è davanti a una donna che ha fatto la terza elementare, non sa che quella che sembra una frase folle può contenere invece tracce di verità. Nel giugno del 41 la polizia e il medico legale, in un'ispezione nel suo pozzo nero, trovano melma, raspi d'uva, ciabatte, ossa d'animali, due limoni, un pezzo di cranio umano e una dentiera. E nel frattempo vengono arrestati anche lo Spinabelli, anche il parroco, però lei si addossa tutta la responsabilità, li scagiona. Gli inquirenti pensano però che anche il figlio debba aver avuto un ruolo, e così arrestano anche il cocco di mamma, Peppino. E in fondo, come poteva una donna anziana, robusta, di bassa statura, uccidere a colpi di scure e sezionare un cadavere e farlo sparire tutto da sola? E così dopo l'arresto Leonarda Cianciulli viene sottoposta a perizia psichiatrica da un importante medico dell'epoca, si chiama Filippo Saporito, e direttore del manicomio criminale di Aversa, e lui la giudica affetta da psicosi isterica e totalmente inferma di mente. La sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna invece accuserà lo psichiatra di essersi fatto stregare e ritiene la Cianciulli una criminale pienamente imputabile. Il processo slitta per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Lei sale sul banco degli imputati solo 5 anni dopo, nel giugno del 1946. Con la fine della guerra, il clamoroso caso della saponificatrice di Correggio occupa le prime pagine dei giornali nazionali e internazionali. L'aula della Corte d'Assise di Reggio Emilia è affollatissima. Tutti vogliono assistere al processo dell'anno. Da questo portone entrarono le vittime imbellettate. Erano vecchie donne cui la Cianciulli prometteva di farle rinascere per l'amore. Gli strumenti della maga erano primordiali, un martello e una scure. Il processo ha avuto luogo a Reggio Emilia. Per ben 3 volte si è dovuto sostituire il presidente. Anche qui si è parlato di sortilegio. I 2 imputati, madre e figlio. Sono venuta a pagare il mio debito, ha detto superstiziosamente la saponificatrice. Torturatemi, fucilatemi, sarebbe il più bel giorno della mia vita. La difesa deve far fronte a testimonianze schiaccianti. La Cianciulli ha asserito che sul suo capo grava una maledizione materna. Intanto lei ha una priorità, quella di scagionare il figlio e dimostrare che aveva solo spedito le lettere senza saperne il motivo. Insomma, chiede di poter fare una truce dimostrazione davanti ai magistrati e agli avvocati durante il processo. Tagliai qui, qui e qui. In meno di 20 minuti tutto era finito, compresa la pulizia. Potrei anche dimostrarlo ora. È così che la saponificatrice di Correggio dichiara in tribunale di essere disposta a far vedere come si fa a pezzi un cadavere in poche mosse. Quella dimostrazione ovviamente non viene mai autorizzata, non compare negli atti ufficiali, però c'è una leggenda che vuole che all'imputata fosse stato fornito segretamente dal giudice il corpo senza vita di un vagabondo da smembrare. La leggenda dice che lei l'avrebbe fatto senza scomporsi in soli 12 minuti. E che abbia sezionato il cadavere, che abbia attivato tutte le sue tecniche di saponificazione, dimostrando con i fatti di essere l'unica artefice di questa mattanza. L'accusa insiste, omicidio a scopo di rapina. La difesa chiede l'infermità mentale e lei non smetterà mai di affermare che lei non ha ucciso per interesse, ma per allontanare l'incubo della morte dai suoi figli. Nelle 800 pagine di memoriale che intitola Confessioni di un'anima amareggiata, spiega più volte che quelli sono stati sacrifici umani propiziatori per salvare i figli dalla maledizione della madre. Non ha mai temuto di sporcarsi le mani di sangue innocente per difendere il suo stesso sangue. Non ho ucciso per odio o per avidità, ma solo per amore di madre. Il dibattimento si chiude il 20 luglio 1946. L'accusa chiede l'ergastolo per Leonarda Cianciulli e 24 anni per Giuseppe Pansardi. La difesa sostiene l'infermità per la donna e la mancanza di prove per il figlio. La corte si riunisce in 2 ore e mette il verdetto. Assoluzione per lui, Giuseppe Pansardi, Peppuccio, insufficienza di prove, 30 anni con il beneficio della semi-infermità mentale per la saponificatrice colpevole del triplice omicidio. Sentenza confermata in Cassazione. E lei si getta tra le braccia di Peppino, che ha seguito in modo composto tutto il processo. Ora lui è salvo, lo stringe in un lunghissimo abbraccio che verrà fotografato e riproposto spesso dai media dell'epoca. La foto diventa la foto simbolo di questa vicenda. La sentenza prevede la condanna a 30 anni di reclusione, preceduti da 3 anni di ricovero in una casa di cura. Di fatto la Cianciulli entra in manicomio giudiziario e non esce più se non da morta nel 70, alla soglia dei 78 anni. Il regista Luigi Comencini gira un documentario sul manicomio giudiziario di Aversa dal titolo L'ospedale del delitto, datato 1950, e nel cortometraggio compare anche la sua storia e la sua voce, perché c'è anche lei, la madre omicida. Qui nel manicomio giudiziario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che la società giudica doppiamente pericolosi, perché delinquenti e perché folli. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonarda Cianciulli ha ucciso. Credeva così di placare gli spiriti maligni che dovevano, secondo la profezia di una fattucchiera, ucciderle i figli. La legge mi ha condannato. E che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo, la fucilazione. Ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi. La legge mai. Forse la scienza mi ha compreso. E dovreste vederlo questo spezzone, perché lei guarda in camera e sembra che legga se tu l'ascolti senza vederla, invece non è così. Lei non ha mai smesso di pensare in maniera ossessiva ai suoi figli che si sono poi trasferiti a Genova. Una suora l'ha ricordata così. Malgrado gli scarsi mezzi di cui disponevamo, preparava dolci gustosissimi che però nessuna detenuta mai si azzardava a mangiare. Credevano che contenessero qualche sostanza magica. Beh, certo, mangiare un dolce confezionato dalla saponificatrice di Correggio, insomma, fa un certo effetto. Il martello, il segheto, il coltello da cucina, le scuri, la mannaia, il treppiede, cioè gli strumenti di morte usati dalla Cianciulli per compiere gli omicidi, sono conservati dal 49 a Roma nel Museo Criminologico. Però in questa storia il mistero rimane. Gli esperti del crimine hanno studiato i fascicoli del caso e dicono che con gli strumenti di oggi si sarebbe potuta fare più chiarezza su quelle scomparse e sulla eventuale complicità di una seconda persona, che non poteva che essere il figlio Giuseppe. Quello che possiamo dire noi è che c'è una sorta di quarta vittima, la giovane domestica che durante il primo omicidio lavora nella casa della Cianciulli. Verrà considerata complice, poi assolta, ma in seguito, innocente o colpevole che fosse, impazzirà. Ci sono storie spesso sconosciute che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala o che hanno saputo, voluto, imprimere alla loro vita una svolta folle e sciagurata, come il caso di Leonarda Cianciulli. Ognuno può fare quello che vuole della sua vita, però ci sono dei casi di cui si parla ancora oggi a 80 anni di distanza. E se volete che noi ci racconti qualcos'altro che vi interessa, fatelo scrivendo al falcoelgabbiano@radio24.it o a www.radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci nei miei e nei nostri social. Se fate merenda, mangiate pure dei pasticcini. Ciao, a domani.